Allora, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono passate da un minuto le 21 di questo giovedì 4 agosto 2011. La mia più cordialissima buona serata da Agostino Spalaore, che ritorna dopo una settimana di sollazzi. Di sollazzi, di molti sollazzi. Preferivo vedere qualcun altro. Sollazzi musicali, assolutamente musicali. Anzi, ne approfitto per salutare gli amici dalla Sicilia che so che stanno ascoltando, anche Radio Alcamo Centrale, che so che è in ascolto. E, buonasera, dicevo, da Blu Radio Veneto, che vi regalerà questa sera una serata all'insegna della musica, come dire, melodica, dolce, languida. Fate quello che volete, è il suono della musica di un pianista che ci viene da Genova, ma lo presentiamo tra qualche istante. Prima vi voglio ricordare le nostre frequenze, che sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Dicevo, Blu Radio Veneto, abbiamo il nostro sito www.bluradioveneto.it, dove potete trovare tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda la nostra regione, gli appuntamenti live, recensioni, critiche, servizi, insomma quello che volete. C'è anche la classifica del nostro direttore artistico Alberto Prisco, che lui è bravissimo, sapete meglio di me, che a ricercare gli artisti nuovi per quanto riguarda il mondo della musica rock. Vi ricordo i nostri numeri telefonici in studio, che sono quello, diciamo, per raggiungerci direttamente, è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli SMS, vi ricordo, è il 346 23 20 033. Ovviamente Agostino non poteva essere da solo, ma con Maurizio. Sì, buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, chiaramente sono le cose importanti da fare quando dobbiamo ospitare un ragazzo che viene da Genova, un pianista. È molto decisamente importante, fondamentale capire la musica strumentale. Non è semplice, ma noi abbiamo le sfide. Stasera abbiamo una sfida musicale da proporre. Abbiamo una sfida, noi ci piace proporre di tutto e di più. C'è un vecchio slogan della nostra cara amata Mamma Rai che diceva così. Ma insomma, adesso è arrivato il momento di presentare questo artista, perché merita di essere ascoltato subito. Si chiama Alberto Luppi Musso. Ciao Alberto. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Grazie. Buonasera. Saluto Alberto. Saluto tutti i telespettatori della vostra radio. E i radioascoltatori. Radioascoltatori. Sì, ma è l'emozione. Possono essere anche telespettatori, perché sì, ci sono le webcam. Con la webcam, quindi siamo perfettamente in ordine. Anzi, ne approfitto per ricordare questo aspetto. Cioè, allora, potete ascoltarci anche in diretta streaming audio collegandovi al nostro sito. C'è un rettangolino rosa con scritto sotto, cioè con scritto streaming, e sotto c'è la freccia nera. Cliccando lì si sente la radio in diretta 24 ore su 24. O meglio ancora, se andate nella recensione del nostro artista, in questo caso Alberto Luppi Musso, a metà circa della recensione fatta da Maurizio, c'è scritto diretta audio e diretta video. Cliccando lì potete o sentire o anche vedere e sentire l'artista suonare, in questo caso Alberto, e quindi avrete modo di vederlo mentre si dimena, si può dire così, sulla tastiera, si può dire quello che stai facendo, sì. Magari poi ci spiegherai un po' tutto l'aspetto. Allora, Alberto, grazie di essere venuto. Grazie a voi. Benvenuto da Blu Radio Veneto. Grazie, grazie mille, grazie dell'invito. E chi è Alberto Musso? Luppi Musso. Allora, Alberto è un pianista nato l'8 maggio del 1974. Molto giovane rispetto a me e anche a te. Sì, sì. C'è poco da fare. Dall'età di 8 anni Alberto inizia a suonare pianoforte, per poi passare allo studio della composizione con grandi maestri, tra quali verso i 20 anni come Andrea Pozza, uno dei migliori jazzisti a livello europeo e mondiale, per poi arrivare a dire: ma quasi quasi ho deciso di fare il mio primo CD avendo la mia musa ispiratrice che è Giovanna. E allora ho deciso di fare un lavoro che è stato lungo, 6 mesi, grazie alla partecipazione della Casa della Musica, che mi ha dato la possibilità di registrare nei suoi studi, che sono bellissimi. Ha un bellissimo pianoforte, ma soprattutto ha grandi musicisti come Riccardo Fioravanti al contrabbasso, Stefano Bagnoli alla batteria, Alessio Menconi alle chitarre, tre più grandi interpreti del certo jazz, sia moderno che sia classico, anche che hanno accompagnato i più grandi cantanti a livello italiano e straniero. Mi hanno tenuto a battesimo in questo lavoro dedicato, come ripeto, a Giovanna, che mi ha fatto innamorare. La tua musa ispiratrice. La musa ispiratrice. 10 brani che raccontano da quando è nata sino al nostro incontro, che spero che rimarrà sempre eterno. Tu hai messo 6 mesi a costruire questo progetto in sala di registrazione, Che lavoro, cioè che collaborazione, che importanza hanno avuto i tuoi amici jazzisti a comporre il progetto? Allora, la cosa, come succede di solito, è che uno dice entro in un mese, faccio le tracce, tutto quanto. Invece, mentre provavo vari brani da poter inserire in questo mio progetto, avevo sentito che però solo piano non andava. Allora solo piano, ho iniziato un attimino a vedermi intorno, ho detto voglio tre grandi. So che è stato un po' che non è mica semplice, perché sono piccolino, almeno avere tre grandi musicisti. Ho avuto la faccia tosta, mi ricordo ancora una sera di dicembre su MySpace, ho visto il grande Alessio Menconi, gli ho scritto, ho detto senta, con la L maiuscola, per ho detto vorrebbe partecipare al mio progetto, tutto quanto. Lui anche un po' in maniera scherzosa l'ha presa questa cosa qua, di però che rispetto, guarderei che più avanti di me, certo, però non sono anziano, cioè, no, però se vuole partecipare, ne abbiamo parlato, una persona carinissima, la saluto come saluto Riccardo e Stefano, e abbiamo deciso poi di formare un quartetto per alcuni brani contenuti. Gli altri brani fanno invece un pochettino, non solo c'è solo il pianoforte, ma anche un accompagnamento di archi, proprio il classico quartetto d'archi. Ma tecnicamente gli hai fatti sentire questi pezzi? Questi brani no, è stata una cosa un po' simpatica, perché loro sono venuti per i loro impegni che hanno, una giornata sola. Io avevo già preparato tutto il lavoro, quindi ho detto, per essere giovane ho già preparato tutto quanto, le stesure degli arrangiamenti e delle composizioni che volevo negli assoli, e loro in diretta, perché ho voluto proprio farlo anche in diretta, non strumento per strumento, abbiamo fatto io, Bagnoli, Fioravanti, trio classico. Poi un'altra volta è intervenuto per conto suo, tanto non aveva tanti problemi, avete fatto questo e questo, benissimo, immediatamente si è inserito. Poi naturalmente ha messo le sue improvvisazioni, certo, tutti, intendiamoci, però hanno sempre seguito il discorso del mio CD, ovvero sia che sempre in qualcosa si troverà nei brani che ho messo Giovanna, ecco, questo è l'ingrediente fondamentale. Il disco è un concept album praticamente, come si usava una volta, Alberto, si usa ancora qualche volta adesso, un concept album, cioè dall'inizio alla fine è sempre da protagonista Giovanna, dalla nascita allo sviluppo poi eccetera. Sì, perché è l'ingrediente. Allora, essendo lei la protagonista del CD, era giusto, secondo il mio punto di vista, da quando è nata, perché avevo voluto fare questa storia particolare con le cose belle. Sta facendo le fotografie, brutte, Giovanni, in ogni caso. Le cose belle e le cose brutte che può capitare a ogni persona, sino al nostro incontro. Quindi ho detto, sempre un ingrediente suo che serve a far capire un fil rouge dal primo all'ultimo brano. Poi lo spieghiamo tecnicamente i pezzi, come sono collegati. Perché io e Alberto abbiamo parlato prima, mi ha spiegato in modo molto essenziale, la gente deve capire e sapere quante difficoltà c'è stato nella formazione dei pezzi. Non è una cosa semplice, è una cosa complicata, però molto interessante. Apriamo la finestra, cosa dici? Sì, io sono prontissimo. Alberto, facciamo ascoltare qualcosa dal disco. Va bene, cosa hai scelto allora? Allora, Creazione, che è il brano che ha anche proprio l'introduzione alla vita di Giovanna, quando quindi viene concepita dalla sua mamma. Certo, certo. Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Beh, chiedo scusa per l'inconveniente tecnico, colpa mia, mi ero dimenticata di schiacciare un tastino. Vabbè, comunque poi l'abbiamo ripresa tutta sin dall'inizio. Bellissima, dolcissima, languidissima. Grazie. Un'apertura splendida di questo disco e altro non potevi fare, insomma, anche aprire in questa maniera così splendida. È perché proprio qua è il momento della nascita di Giovanna e quindi secondo me tu è una cosa anche dolce, ma che allo stesso tempo faceva capire proprio il momento della cosa più bella, perché poi la creazione è la cosa più bella, sia in natura, sia per noi uomini. Certo, e poi musicalmente tu metti a fuoco determinate cose. Innanzitutto il modo percussivo di far sentire il pianoforte in alcuni momenti. Percussivo è il momento dell'amore momento. Che viene concepito. Esattamente, e poi il progressivo allargamento di tutte le perché note. Perché lei viene alla luce, certo. Quindi è una cosa meravigliosa e allo stesso tempo dà emozione, il cuore palpita, no? Soprattutto per la mamma, no? Certo. Che dà alla luce una bambina splendida. E poi questo straordinario chitarrista che si intrufola nel senso positivo, sì, del termine, e gioca dal nervo unisce la parte dell'amore dei genitori con la nascita, quindi deve legare in maniera forte queste due emozioni, che esatto. Poi l'amore tra uomo e donna, certo, la certo. Nascita del bambino, forse cose più belle, ecco perché creazione. È vero. E poi questo gioco quasi spagnoleggiante che lui fa, sì, si interseca, si nasconde e poi viene fuori. Eccetera. Spagnoleggiante proprio perché la passione, l'amore, no? Certo, la Spagna è passione al 100%. Ok. Allora, Alberto, questo disco Giovanna. Sì. È proprio un percorso che hai voluto fare tu, è sì. Un inizio e poi ci sarà un seguito in tutt'altro campo, in tutt'altro settore, o resterà sempre comunque questa la tua allora, immagine? Allora, visto che ha avuto successo, un buon successo questo CD, continuerò su questa tematica di fare un altro CD, però sempre solo esclusivamente musicale. Però userò altre tematiche naturalmente. Certo, Giovanna certo. È stato il primo capitolo, mi ha portato bene, rimarrà per me fondamentale. Disco più bello. È l'inizio. Ecco, spero di fare dischi almeno dello stesso livello, ma che ogni disco voglia che ha proprio un discorso che possa riguardare, perché sì, Giovanna riguarda me, ma tutti noi abbiamo la moglie, sì, la fidanzata, tutti abbiamo una Giovanna. Anche una Giovanna. Esattamente. Quindi questo può riguardare, come tutte le donne vorrebbero avere un disco regalato dalla propria persona, che poi può essere anche una rosa, può sì, essere qualsiasi certo. Gesto, che basta che sia dolce. Il prossimo disco sarà dedicato esclusivamente alla gioia di vivere. Ci colleghiamo a creazione, ma alla gioia di vivere, quindi più che altro dedicato a tutti quei pargoletti che mi stanno intorno, che sono tutti i miei nipotini, perché ognuno di loro mi regalano delle emozioni che poi io inizio a vedermele dentro e da lì inizia a vedere le musiche e quindi sa proprio la gioia di vita, che è quello che insegna al bambino. Certo, quindi hai deciso a tema, a tematica questa volta, c'è la gioia fare. Del bambino, la gioia di vivere, perché tante volte noi adulti abbiamo un po' questa cosa di dire ma c'ho mal di testa e sto male, ma quando tipo un bambino può stare poco bene o soffre, loro sorridono sempre e in quel momento tu ti senti in nullità, allora dici ma allora il mio mal di testa Potrei lasciar perdere, quindi far capire cosa vuol dire vivere, sperare, non è un discorso facile, però dare proprio delle aperture quasi sinfoniche, orchestrali con altri bravi, che poi mi piace proprio cambiare ogni volta esecutori per dare nuove idee, proprio per dire ecco questa è la vita, un'esplosione di vita, sempre però sulle tematiche armoniche, melodiche che mi hanno portato bene su Giovanna, ecco perché lo seguo questo discorso, se no cambieremo, visto che mi è andata bene il primo CD, dico continuo su questo discorso. Lo vuoi perfezionare? Voglio perfezionare, però con darla gioia di vivere. Con temi gioioso però rispetto a sì, temi gioiosi e in qualcuno però da far pensare, ah, proprio come dicevo, attenzione, ok, uno può avere tutti i problemi, ma c'è gente che sta peggio di noi, certamente. Quindi anche riflessione. Ho capito, ok, perfetto. Parlavi di nipotini, io apro una piccola parentesi, volevo salutare una mia carissima amica che è la tua parente, la Simona, che penso stia ascoltando, giusto? Sì. E anche Jack ovviamente, io vi mando un abbraccione grande, Simona sei nel mio cuore, lo sai, ti voglio bene, un abbraccio grande anche da tutta Blu Radio Veneto. E un saluto a Jack ovviamente. E infatti i due brani che faranno parte sono dedicati ai due nipoti che tengo di più, uno è Eric e l'altro è Sabrina. Uno aprirà il disco, l'altro invece lo chiude. Proprio per dire, loro due sono le mie due gioie e in mezzo ci sarà questi piccoli diamanti. Benissimo. Facciamo sentire, vedere un diamante, cioè sentire musicalmente. Sì, deve suonare, deve suonare. Sì, Cosa ci fai ascoltare? Allora, far ascoltare come primo brano proprio Giovanna, che è stato il primo brano studiato a casa l'estate prima di andare in inverno a registrare. Questo motivo mi piace, sì, ci rivedo Giovanna. L'hai composto per primo in assoluto questo pezzo? Questo sì, per primo in assoluto. È stato anche il primo brano che ho proprio registrato. Mi ricordo che pioveva in una maniera tremenda proprio a novembre, ero da solo io col tecnico, l'ho provata, riprovata, perché poi ogni volta non andava bene, trovo una nuova soluzione. Allora faccio sentire proprio la prima versione, quella proprio solo piano, quella che mi ha dato emozione per dire sì, questo sarà il titolo dell'album, sì, questa sarà la canzone che ci tengo di più. Perfetto. Grazie. tutte le storie che meritano di essere raccontate iniziano con un fiore, una rosa da donarle e nel cuore incatenarle, come una donna, come il fiore che ogni donna porta dentro di sé, anche se la musica ha bisogno di essere desiderata, corteggiata, amata. Pochi sono in grado di amare una donna, così come pochi sono in grado di corteggiare la musica, anche se tutti la desiderano. Giusto? Giusto. Giusto. Giusto. Grazie. Grande. Sì, devo dire una cosa. Io ho notato questo. Quando suonavi, dai un'energia incredibile, non so, proprio... Questo, ragazzi, questo è il primo pezzo, ce ne sono altri, ce ne dice 30, fino alle 11, dai un'energia incredibile, proprio una tensione, per il trasporto, il pianoforte eterno, un cosa unicum, una cosa sola. Sì, perché era il momento dove vivo forse di più le emozioni, perché poi sono timido come persona, però quando suono mi sento che devo trasmettere invece che parole, certo, con la musica, che è il momento che... mi estraneo da tutto, per me esiste solo lui piano. E me, e certe volte anche se posso commettere un errore come dal vivo, che i miei amici mi guardano come, ma come, perché ti arrabbi così tanto, mica fatto, no, perché volevo farla così, invece mi è venuto ecco, la questione è che lo vivo tanto, tanto, intensamente, infatti chi mi accompagna ultimamente anche nei concerti, dal vivo viene trasportato, perché a loro volta vengono presi da questa foga, perché in poche parole si parte da brani molto anche classici, jazz, e si arriva a quasi come due cavalli impazziti, sì, proprio, perché uno cerca di superare l'altro, ma non superare per sé, proprio si sente la forza come due cavalli che possono correre sulla spiaggia, quindi si dà proprio tutto se stessi, proprio, e infatti poi il pubblico per fortuna è capisce, contento. Capisce. Sì, beh, questa che tu hai detto ti dà tutto se stessi, i nostri ascoltatori ti hanno visto con le telecamere, ti sei quasi appoggiato al piano, proprio avvicinato, come fosse una cosa, dovresti aggrapparlo, come prenderlo. È una cosa, vuol dire, è questo significativo. È una caratteristica sua, perché se tu guardi i video che sì, questo è vero, però io video una cosa, ma vederlo dal vivo è un'altra cosa, è sì, proprio certo. Davanti infatti a non noi. Sono dati per i bambini, so, si spaventano delle facce. Se al di là del classicismo, se al di là del classicismo, chiaramente che tu hai, chiaramente parti dalla movenza classica, l'inserimento del jazz ti dà questo tenore. Improvvisazione di un free, di una libertà sento totale. Quasi la sensazione che le mani entrano esatto, a far parte. Meno male che poi mi stacco se mi devono portare via col pianoforte. Esatto, ma anche il finale, ho visto il finale che hai fatto, il finale del pezzo. Non liberato, ti sei finalmente pensato, ho finito il pezzo. Sì, però non tanto felice perché ho detto, ah, è finito. Sì, vabbè. Però guardavo anche il regia che dico, siamo poi a lungo, certe volte faccio anche pezzi 20 minuti, mi guardo. Ma puoi allungarlo quanto vuoi, qua. Sì, lo so, però. Radio Sera non ha nessun confine musicale, assolutamente. Per i miei collaboratori, per chi suona con me, certe volte mi guardano, è finito. Infatti alla fine sono più esausti di me. A proposito dei collaboratori, dimmi. Stasera volevo presentare, che è stato dolcissimo e bravissimo, Mario Vasa, che mi ha accompagnato. E bene, se non fosse per lui, lo salutiamo, nessuna ecco radio, grazie a tutti, telespettatore mi poteva sentire. Quindi grazie a lui, che lui mi accompagna tante volte, soprattutto se facciamo anche cose molto intimistiche, esempio con solo percussione al cajon e pianoforte, e poi anche altri musicisti che mi fa piacere citare, perché loro, certo, come vivono dal vivo, soprattutto Emanuele Deschaux, che è un ottimo, è un grande contrabbassista jazz, e mi aiuta tanto, ecco, a creare quelle atmosfere, proprio il pubblico se poi urla, strepita di felicità, perché lui ci dà una carica, siamo quasi proprio nati per fare coppie. Stasera mi spiace che non può essere qua, se no, e lo saluto caramente, perché è quasi come un fratello, ecco. Benissimo, benissimo. E ci siamo dimenticati di salutare Giovanna, però. Sì, io l'ho salutata che faceva tutto, però la salutiamo. La salutiamo a Giovanna, che è la musa ispiratrice, è qui comunque, vero? E poi ti sei fatto accompagnare anche da un... Lo dicevo già prima, che se non c'era Mario Vasa, sì, se non ci fosse stato lui, questa sera a Padova non potevo venire, che già l'altra sera con i miei, non posso venire a Padova, non è possibile. Ma lui gentilmente, col cuore che ha immenso, ma è stato, accompagno io. E comunque Mario è un batterista. Batterista percussionista. Sì. Cosa suoni tu di bello, Mario? Discretamente adesso, ultimamente faccio del jazz con un altro gruppo e a volte anche un gruppo di liscio, che facciamo delle serate in giro. Quindi mi diverto un po', un batterista, cantante, un po' di tutto, un artista 360 gradi, sì, dove c'è musica ci sono io, ma anche un caro amico, perché mi piace circondarmi solo di cari amici, certo, mi sembra, sì, poi lui è coinvolgente, quindi quando ti dà anche sì lo chiamo, ma no, non ce ne voglio, no, tu vieni con me, ma vieni qua che suoniamo e basta. Mi piace proprio, ecco, mi piace suonare con persone che amo, se no c'è il feeling, non c'è feeling, io ho bisogno di persone come lui che mi diano proprio la sensazione forte di sentire parte di me in quello che creo, ecco. Certo. Benissimo, 21:31, abbiamo ancora tempo, molto tempo. Non mi sembrerà vero, ma se sentite questa melodia è pur sempre comunque la vostra emittente preferita in questo momento, e cioè Blu Radio Veneto. Queste sono le nostre frequenze, 88.700, 94.600, megahertz in modulazione di frequenza ovviamente. La voce di Agostino Spolore assieme a Maurizio Calzavara, stiamo proponendovi una melodia in musica con le mani, chiamiamo così, di Alberto, che suonano magistralmente la sua tastiera, che poi tra l'altro è una tastiera che rappresenta un pianoforte. Eh sì, è una 88 tasti, pesa anche. Pesa anche. Infatti, secondo me lui, perché poi a ogni tastiera io do un nome, cioè, tutte battezzate. E questa si chiama? Mi spiace, è questa qua, e to. Non ha mica valenza, però. Infatti, tanto quando mi vedono con la borsa, dico, dai Samuel, vieni. Mi guardano solo che dice, ma con chi fa? Col pianoforte. È come to. Mi dispiace. C'ho Eto, c'ho Milito, c'ho Zanetti, c'ho tutta la formazione. Mi spiace dirlo. Non c'è il nostro direttore artistico stasera, è quello il bello. Non c'è neppure il nostro direttore artistico in montagna. Che mi sarebbe stato molto soddisfatto di questo. Ma lo salutiamo. Esatto. Secondo me è anche importante avere, so che uno dice, ma è uno strumento, invece no, io devo avere proprio come fosse da piccolino uno c'ha il camioncino, no, per giocare, ecco, per me con loro ci gioco, ma devo avere proprio una passione, quasi quasi non posso portarmelo vicino a lei nel letto perché non vuole, ma sono talmente affezionato che da, quindi anche il nome, come si dava l'orsetto, no? Certo, e lui è To, perché è la più grande, la più possente, sì, ma posso farti una domanda, Alberto? Ma hai fatto sentire il tuo disco, l'hai mandato alla squadra, hai citato Eto e tutto il resto? No, io, no, quello non l'ho fatto. Non hai fatto, no, se no poi non vorrei, che essendo troppo romantica poi dopo mi vanno in campo, no, presto, è per quello. Se fosse più Juventus Inter sarebbe un problema. Vi ringrazio tutto. Tanto, assolutamente. Vedi che pensa a però tutto. Alla Juventus lo darei, anche al Milan, soprattutto a Pechino. Andiamo, se ci ascoltano. Via internet, sì. Via internet può darsi. Può essere, perché siamo collegati. Siamo collegati in tutto il mondo, quindi. Siamo collegati in tutto il mondo. Allora, Alberto, ci fai sentire ancora il suono delle tue mani? Sì. E adesso, sempre dal CD Giovanna, un brano che io ci tengo particolarmente, sempre nel discorso del suo nome, ma del suo viaggio, perché in poche parole, lei parte da Lamezia, tanti anni fa, aveva 20 anni, quindi dal sole, dall'allegria, si trova proiettata a Genova, un'altra realtà, certo. Un altro dialetto, all'inizio non è che si possa trovare più di tanto. Allora io ho visto questa sua tristezza romantica in Genova a dicembre, che inizia nel CD con un assolo di contrabbasso, proprio per questa idea della persona che cammina solitaria, che dice sì, sto per iniziare una nuova avventura, lascio determinate cose, e quindi un po' una malinconia dolce che può avvolgere per tutti noi quando siamo nei nostri pensieri. Quindi, certo. Genova a dicembre. Thank you. una tensione incredibile nel senso positivo del termine. Io ho visto, guardato attentamente, cioè proprio prendevi il piano come, no, lo percuotevi nel senso, però con amore, sì, assolutamente sì. Con amore, e ti, insomma, hai perso quanti chili in questo momento? Tanti, perché in questo pezzo hai perso un sacco di chili. Infatti le palestre con me fanno pochi affari, appunto. Perché faccio palestra a sé, ecco perché sono macro. Perché è la prima volta che vedo una cosa simile nel senso positivo, proprio la tensione, no, ma certe tensione, volte si dimmi. Spaventa che sento, non è che faccio, sì. che ho dei dolori, proprio che la sì, questione è che mi prende, esatto, ti prendeva, non me ne frego degli altri, devo pensare a suonare, devo pensare a divertire io e ma sportivamente possiamo dire come un tennista quando fa la sua volea, fa una smesciata, cioè da quello sforzo, quella tensione, è quello, proprio quello, mi piace è quello io quando, ho visto questo, è come quando Eto'o fa uno slalom, giusto? No, come Capitan Zanetti quando riprende la palla. Perché rovinate una bella atmosfera? Perché la rovinate? Parliamo di musica, non parliamo di altre cose. Vabbè, stiamo scherzando. Sì, chiaramente stiamo scherzando. Non mica tanto così. Per noi, noi interisti. Ma va bene, no, ritornando al pezzo, che è molto bello. È proprio un pezzo. Parlavi di un mese particolare, l'inverno praticamente, sì. E dà quella sensazione là. Attenzione, secondo me dicembre è un mese particolare. In che senso? Perché arriva dopo. E l'inverno, novembre, uno dice grazie, bella cosa, però dopo novembre sappiamo che è un mese particolare, certo. Per noi credente, quindi c'è sempre un po' quella malinconia, è gli ultimi giorni che abbiamo Natale, certo, che quando ero bambino lo vivevo col massimo spirito, adesso che sono iniziato un po' più grande dico, non è che mi rende un pochino più triste, quindi vedere questa ragazza un po' come l'uomo solo nella strada, come abbiamo visto in tanti film, proprio in questo mese, che poi era il mese che poi l'è arrivata, certo, c'è quella tristezza e quella felicità che allo stesso tempo si contrastano un po', no? Come in certi cocktail, in certe cose, che un po' due ingredienti diversi che però danno una reazione tutto sommato bella, però che a certi può lasciare l'amaro, a certi può lasciare il dolce, quindi poi sempre i miei pezzi lascio un po' le interpretazioni che tante persone poi si rivedono o pensano altre cose, poi il bello che a fine concerto dicono, ma sai che in quel tuo pezzo mi sono rivisto io, in quel pezzo ho rivisto mia mamma, in quel pezzo ho visto mio figlio che abbiamo avuto una lite perché c'è stato uno strappo, poi siamo rimessi assieme, ecco il bello che poi loro rivivono le loro emozioni e ognuno giustamente se la fa sua, il mio brano, ecco. Qua è fatto in versione assolutamente piano, sì. Assolutamente piano. Dal vivo, un pezzo simile, come lo porti, come lo trasformi? Allora, un pezzo simile... Non è semplice a farlo, è difficile anche suonarlo. Ma ecco, io, quello mi piace sempre un pochettino sbalordire, lasciare così. Infatti parto, come è nel CD, con la figurazione, il basso, precisa. Cioè, ecco, il basso preciso, questo è importante. Perché poi... No, Emanuele, una persona che è un metronomo, è 1, 2, perché in tocca 1, 2 e così prosegue. Piano piano mi inserisco io, che sono io il dispettoso, io sono il Pierino del pezzo. Piano piano lo coinvolgo in maniera tale, che c'è anche un video su YouTube, che lui addirittura prende l'archetto e inizia a fare tipo però sto po' avvicinarci da dentro, proprio a tirare fuori e io poi finisco quasi nella Carmen di Bizet, perché proprio... ognuno, io sento la sua idea e io ci vado dietro, così lui fa con me, quindi lui... è la persona seria e quindi faccio capire il tema, quello che voglio, e poi io mi intrometto come dici, sì, però aspetta, adesso c'è anche tutta l'altra parte e allora per quello che ci troviamo bene, la serietà con l'allegria, che poi il basso che sembra una forma percussiva, visto che tu ti intendi di forma percussiva, questo inserimento del basso che vi parlava, sì. Alberto, è fondamentale in questo pezzo, dà una colorazione diversa, leggermente sì, diversa, quello che non dà appunto lo strumento della batteria, esattamente, fa parte sempre della composizione musicale, sempre ha un suo livello generativo, in senso che dà come un ampliamento di un'operazione, cioè un basso come un colpo di batteria, esattamente colora, sì, in quel livello, sì, e Alberto volutamente ha scelto il basso per dare questo motivo, sì, infatti uno dei nostri progetti che ho con Manuele De Show è proprio quello, scusi presenti, no, per averci battuto, però ultimamente nel jazz si usa molto gli strumenti ma senza la batteria, perché la batteria è importante, non ne parliamo, non vogliamo neanche mettere in discussione, però l'ascoltatore tattasette tan tum il piatto, invece togliendo la batteria l'ascoltatore è portato, non essendoci la batteria, ad ascoltare gli altri strumenti. Infatti tante volte, poi essendo un grandissimo contrabbassista, lui usa la cassa del suo contrabbasso proprio ci picchia in maniera che sembra, quindi fa da sì, da proprio la percussione, però anche la melodia. E questo è quindi proprio un binomio un po' particolare, che proprio escludiamo gli altri strumenti, che il contrabbasso è molto particolare, però anche ritmico, sì, più forte ritmico, però dà anche tanta melodia. Ecco perché un po' il nostro progetto è proprio rimanere due jazz in questa maniera qua, per avere un'atmosfera, soprattutto in quei locali jazz, blues, sì, che ci sono. Certo, eh? Che esistono ancora, che nonostante esistono tutto. Ancora, nonostante tutto, Alberto, io so che tu sei in finale, con, per esempio, con Chiara Ragnini. Cioè, sì, in un concorso sei, giusto? No, facciamo, è un festival. È un festival. Chiara Ragnini verrà qui, ricordiamo, il 25. Grandissima artista, eh? Sì, è una cara amica anche, tra l'altro. Infatti, se posso dire due parole, certo, anche perché ci tengo in maniera particolare, perché il 19 e poi il 26 a Varigotti, secondo me c'è un bellissimo festival, non perché partecipo io, ma io parlo a dei miei colleghi, non parlo. Si dà la possibilità, grazie a Roberto Grossi, che è un talento anche lui con il suo gruppo Subbuglio, di dare voce a quei talenti che lui ha scelto, senza etichetta, senza la casa discografica importante supporto, e dare proprio spazio alla musica giovane in due serate belle, due serate dove c'è tutta la musica, si parte da bravissime cantautrici, si parte per la musica folk, alla musica rock e sinora anche arrivare al jazz, tutte in maniera, ecco, ogni artista che partecipa al Varigotti dà la proprio in punta, si sente che uno dice: ah, questo è un brano di Alberto Pimusso, questo è un brano di un altro artista. Ecco, sono 8 artisti secondo me scelti bene, perché ognuno dà le proprie emozioni e si sentono, ecco. E quindi sei con Chiara Ragnini? Sono con Chiara Poi c'è Ragnini, Claudia Loddo, se non sbaglio. C'è anche magari Claudia ci sta Loddo, ascoltando, sì, Claudia, la salutiamo. Poi c'è Davide Ghetto, io li saluto tutti, certi non ho la fortuna. Che rapporto hai con Chiara e con, o con Claudia? Allora, Chiara l'ho conosciuta una sola volta di sfuggita, ma è dolcissima, una bravissima ragazza, una grande professionista. Claudia, ci scriviamo, e avrò anche la fortuna di accompagnarla, perché poi in questo festival qua io sarò accompagnato da un altro grande nome, perché sono elencato Menconi, Fioravanti, Bagnoli, The Show. Io ho la fortuna di essere accompagnato da un proprio guidar solo, come si diceva una volta, blues e jazz, del livello di Marco Cravero, turnista di tanti, ma soprattutto di De Gregori, certo, e Dalla, con degli assoli blues che fanno venire la pelle d'oca. Esatto. La vedete in diretta. Sì, e con Claudia cosa fai? Con Claudia l'accompagneremo in alcuni suoi brani, e mi piace, ecco, questa cosa di entrare e di disturbare, nel senso molto elegante, questa contaminazione di questi generi, quindi cercheremo, natura che sono già belli i suoi brani, cercheremo sempre di portarli con le nostre, come posso dire, la nostra espressività, il nostro modo di vedere musica, certo, quindi col jazz, una brava cantautrice romana, con il jazz mio, col blues di Cravero, un'apoteosi, proprio quelle cose che secondo me mancavano un po' di tempo. Cosa gli mandi un saluto? Cosa gli dici a Claudia? Se Claudia, ti aspetto, e speriamo di fare dei pezzi bellissimi assieme. Guarda, ti aspetto e ti mando un bacio da Padova, tramite Genova, passando da Mantova, passando da Lamezia, ritornando a Roma, quindi più di così non posso. E io contraccambio, naturalmente. Ah, quella che stava la sorpresa, ciao. Ciao da Roma. Au. Buonasera a tutti. Ciao Claudia. Ciao a tutti, stavo giusto sentendo appunto musica e parole di Alberto, e veramente grazie anche poi di questa presentazione, insomma, mi fa molto piacere. Almeno ci sentiamo anche per telefono, vedi, ci sentono esatto, tutti, così non è neanche più privé, non possiamo dire niente. Esatto, vabbè, come hai detto tu prima, poi insomma ci vedremo e avremo appunto il piacere di suonare insieme al Varigotti Festival 19, sì. E quindi insomma, chi e come dicevo io, era una bella esperienza, perché Roberto Grossi ha fatto una bella cosa secondo me, che poche volte si vedono, ecco, proprio dare anima e corpo e dare anche la possibilità a noi artisti di far sentire le nostre emozioni. Infatti dicevo, sono tutti artisti che hanno un'impronta ben precisa, e questo è bello, ecco, un po' fuori sempre dall'etichetta commerciale, se tu sei d'accordo. Sì, certo, ma poi tra l'altro anche di generi molto lontani, però che poi comunque in realtà sono vicini, e la cosa bella è anche riuscire a trovare proprio questi punti di connessione, insomma, a dar vita a cose sempre nuove, no? Giusto. Infatti non vedo l'ora. Però vieni da Roma, mi raccomando, eh? Certo. Claudia, che rapporto hai con, musicalmente parlando, con Alberto? Diciamo, in che senso? Cioè, aspetta, la collaborazione che avete, insomma. Sì, allora, diciamo che avrò il piacere di portare due brani. Sì. Due brani miei, appunto, insieme ad Alberto e anche a Marco Cravero, proprio il 19 agosto. Che faranno parte del disco nuovo, giusto? Sì. Sì, esatto. Quindi Alberto suonerà nel tuo disco? No. Solo lì. Questo può essere un'idea. Certo. Non so, questo è un lancio in diretta. Se vuoi ti passo il suo numero telefonico, va bene? Vabbè. Intanto iniziamo dal 19. Che dici, Claudia? Sì, no, certo. Claudia, parliamo rubiamo qualche minuto ad Alberto, parliamo un po' di te. Dici qualcosa di te. Certo. Dimmi, allora, tu vieni da un'esperienza con una band, giusto? Esatto, sì. A dire la verità, ecco, con questa band ho lavorato per molti anni. E, insomma, si faceva musica sempre in italiano, brani originali, un rock melodico, sì. Pop rock, pop melodico. E niente, poi alla fine ho deciso comunque di intraprendere la carriera, diciamo, da solista, il percorso da solista, e appunto da gennaio continuo da sola e ho scritto tanti nuovi brani che adesso sono in fase di lavorazione, quindi fra un pochino entreranno in studio e a breve appunto il CD. Che genere farai? Cantautore? Allora sì, farò un sempre rock melodico, influenze folk, sempre in italiano e anche qualcosina in sardo. Ah sì, perché ricordiamo che lei è originaria da Cagliari, giusto? Esatto. Claudia, siccome non ci ascolta nessuno, ma io ti strappo una promessa. Dimmi. Ce lo vieni a presentare in anteprima il disco? Assolutamente sì, certo, grazie. Guarda che ti hanno sentito tutti, Vabbè, testimoni. Vabbè. Io soprattutto come testimone, come pianista. Esattamente, fondamentale. Tanto si può sparare sul pianista, quindi. Sì. No. Va bene, Claudia, va bene. Grazie. Ciao, Claudia. Ci vediamo presto. Grazie a tutti. E saluto anche Tò a questo punto, dato che ne avete parlato. Oh. Scusate. Anche tu sei di fede, Sì, beh, la mia chitarra non ha un nome, però da oggi penso che inizierò a pensarci. Ma ecco, allora, ci sta bene uno Stankovic, magari. No. Un po' complicato. No, già Stankovic parte, già che è già stanca. Stankovic parte già un po'. Vabbè. Allora, che ne so, cosa potrebbe mettere? Samuel? No, non parlo io, non Alvarez. Parlo assolutamente. Intanto c'è anche la chitarra, c'è anche il numero 11. Io parlo solo di musica, assolutamente. Claudia, grazie. Grazie a te di aver accettato questa sorpresa ad Alberto. E a voi, un saluto a tutti, a te e ciao Alberto. Ci ciao, bellissima. Ciao, Claudia, un bacio. Ciao, grazie. Ciao. Allora Alberto, contento? Che bella sorpresa, vedi? Vedi? Fa sempre piacere, poi se sono collega anche. Certo, le vie di Blu Radio Veneto sono infinite, guarda, mio caro, quindi troviamo sempre il sistema. È bello che te l'ho fatta sotto il naso, non ti sei neanche accorto. Ma mi ha fatto un piacere, almeno... Potremmo, già che ce l'avamo, metterci anche d'accordo su come la facciamo questo pezzo, come facciamo. Lo farai prossimamente, insomma. Sì, grazie ancora a Claudia Lodo, ovviamente, per la partecipazione. Adesso ti facciamo riposare, facciamo ascoltare qualcosa dal disco. Okay. Cosa dici? Va bene. Cosa hai scelto? Ho scelto Serenata per Giovanna. Questo brano è particolare perché l'intro ha una doppia registrazione di pianoforte, prima la parte armonica e poi la parte melodica, per poi andare un piano solo. Ecco, l'unico brano, assieme a Giovanna, che ho deciso di fare proprio piano solo, perché sono i due brani che uno porta il nome, poi la Serenata, il classico brano, no? Che si dedicava alla propria donna. Certo, sì. E allora ho deciso di fare questa unione di questi due pianoforti. Benissimo. Thank you. Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Comunque resto dell'idea che un rientro così dolce mi fa solo che piacere. Grazie. Dalle ferie sto parlando, perché ritrovarmi di nuovo ad ascoltare musica dopo 5-6 giorni che proprio avevo staccato, anche se ho partecipato a concerti, a serate, eccetera, insomma, comunque sentirlo poi in cuffia, insomma, è tutta un'altra cosa. Poi sì, la tua melodia, Alberto, è grandissima, veramente. Grazie a te di regalarci queste grandi emozioni, insomma. Questa è Blu Radio Veneto, amici carissimi, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Vi stiamo regalando 2 ore circa di melodia in musica. Noi siamo orgogliosi di essere, come dire, liberi di fare, di selezionare la musica che vogliamo, nel senso che possiamo passare dal rock, al country, al jazz, al blues, al pop, al cantautorato, e questa sera abbiamo la musica strumentale. Blu Radio Veneto vi regala anche queste emozioni proprio perché cerca di diciamo far conoscere gli emergenti il più possibile, perché, come lo dico sempre, lo ripeterò all'infinito, danno spesso e volentieri molta più emozione rispetto a tanti cosiddetti VIP, big, chiamateli come volete. Io preferisco ascoltarmi un Alberto Lupi Musso, magari, che non faccio nomi, va bene? Se non lavoro più, sono finito. Comunque, questa è Blu Radio Veneto. Ogni sera, quasi ogni sera, vi regalo. Giro di parole, scusatemi. Vi regaliamo emozioni in musica, live, in acustico, dal vivo. Veramente completamente e totalmente in diretta, quindi basta solo sintonizzarsi più o meno dalle 21 alle 24. Questa è appunto la vostra emittente che vi regala queste emozioni. Sì, c'è sempre qualcosa da sentire. Stasera abbiamo la scatola musicale di Alberto, scatola molto importante. Sto parlando di questo pezzo, Alberto. Alla fine c'è una citazione, un rimando, un richiamo, un collegamento ideale con la musica popolare. Sì, con la musica popolare, perché Giovanna viene dal sud e secondo me qualche nota che riporta un po' a determinate opere, anche tipo che deve essere Mascagni, sì, ci stava, perché ricordiamo la grande cultura che ha il sud, anche non parliamo solo musicalmente, e lei viene da una terra ricca, lei stessa faceva tante bellissime cose a livello proprio culturale, proprio in maniera folcloristica, ballando in questi gruppi bellissimi che ormai un po' si è perso in tutta Italia, però secondo me un po' le nostre radici dovremmo un pochino ritrovare, ecco, un po' più noi stessi, troppo ormai, troppo modernità, e quelle cose che ci hanno insegnato i nostri nonni, i nostri bisnonni, anche quelle feste, quando una volta c'era la festa di un santo, che ho avuto la possibilità di vederla giù a Lamezia, una cosa. Sì, poi le tradizioni vanno sempre perse, appunto. Sì. Infatti, vedere il santo che viene portato, questa gente che salta di gioia, sono rimasto... Sì, e proprio di tradizione io ricordo il Salento. Pensa per Sant'Antonio. Certo. Quindi Sant'Antonio si uniscono. Che avete la vostra. Esattamente. Parlando di tradizione, io ricordo parlando del Salento, anche la stessa nuova compagnia di canto popolare ha fatto delle cose meravigliose. Sì. All'epoca con Eugenio Bennato, per riproporre in chiave moderna, riproporre certi dettami, chiave moderna certe e cose. Quello mi ha insegnato tanto mio papà, che ama tantissimo la canzone napoletana, perché la mia mamma mi ha insegnato più che altro ad amare l'opera e la musica classica, Rachmaninoff, come passare per da Verdi, a Puccini, tutta la musica. Infatti io già da piccolina, a 6 anni, andavo già a teatro a sentire a Mantova con i miei già i concorsi di tenore e soprano, già io mi emozionavo. E la parte invece che riguarda la musica popolare, che è fondamentale. Mio papà, la parte rockettara, mio fratello. Infatti io già a 6 anni stavo davanti allo stereo, altri bambini giocavano, io partivo già con i Kiss a 6 anni per arrivare poi quindi Pink Floyd, per arrivare poi a Keith Jarrett a 20 anni. Eri precoce con i Kiss a 6 anni, è una cosa incredibile. Mi piaceva proprio la musica, mi spaventavo se li vedevo. Sì, chiaramente, ma i Kiss avevano quella caratteristica, sì, di spaventare a 6 anni, vedevi certe facce o certi atteggiamenti, però musicalmente erano molto tambureggianti, non ti prendevano. No, mi trascinavano, infatti da piccolino ero portato a queste musiche un po' rock, infatti... Se a una certa età io amavo più che i pianisti, i chitarristi, proprio perché poi da lì ho iniziato a portare, a affinare un po' il mio genere tra il classico e il moderno, e poi da lì amare e la musica classica, che io amo Bach, Vivaldi, sopra ogni cosa, proprio perché loro erano molto virtuosi. La chitarra, se viene suonata in una certa maniera, come ha suonato Menconi, come la suonerà dal vivo con me, Cravero, nel prossimo CD, trasporta, ti rapisce. Tu hai citato Bach, io mi ricordo. Noi rockettari di un certo tipo, io a una certa età, io amavo particolarmente i Nice. Perché amavo i Nice? Perché c'è un personaggio che si chiamava Keith Emerson, che ha ripreso i concerti brandenburghesi, sì, in chiave progressive, non si chiama progressive, in chiave Nice. All'epoca ha ripreso i concerti brandenburghesi, sì, ha ripreso Sibelius, ha ripreso tante cose particolari. Sì, Keith, infatti, Emerson, un caro mio amico mi ha fatto ascoltare, che proprio mi ha fatto apprezzare determinati anche passaggi. Poi allora anche tipo i Jethro Tull, certo, faceva, i Jethro Tull, Mussorgsky andavo... è stato ripreso da Emerson, Lake and Palm, e molti si sono accorti di Mussorgsky, sì, sentendo Emerson, Lake and Palm, che prima non sapevo neanche chi era. Esatto, buona cultura musicale ci vuole sempre, sì, tanto sono un d'accordo. Musso bene o male c'è sempre, certo, certo, questo è vero. Questo e è vero. Poi io c'ho la fortuna di essere nato lo stesso giorno di Keith Jarrett. Ah, allora questo è un grande privilegio, un grande privilegio. Non so per lui se non condivide. Beh, ha fatto delle cose meravigliose, ha fatto delle cose, sì. Io ricordo, noi rockettari, torno ad essere rock, Keith Jarrett ha fatto un disco che si chiama Colin Costet, che è stato il primo disco in assoluto a vendere 1 milione di copie nell'ambito jazz. Non era mai capitato, cioè è andato oltre il jazz, è andato nel rock. Infatti è stata la dispiazione di mia zia, che sì, compare 5-6 copie, perché io lo consumavo ogni volta. Sì, appunto, che era famosissimo, che doppio album dal doppio e lui insegna album a fregarsene di quello che pensano gli altri, certo, all'etichetta, sì, ma di suonare, di dare emozioni. Certe volte capita anche a me. Ma tu sei un jarrettiano. Sì, sei già vettiano. Sì. Maurizio, già che ci siamo, ne approfittiamo per allargare il discorso a quel solito momento che dedichiamo. Ah, sì, vediamo, già questo che è interessante, perché è la prima volta facciamo un giochetto, è un giochetto, Alberto. Possiamo anche fare intervenire, sì, ti chiamo il tuo nome, mi ricordo. Mario. Possiamo fare intervenire anche Mario. Lo presenti te, che tu hai una presentazione cattedratica. Grazie del parere. Allora, Alberto, no, niente, il discorso è questo, non ti preoccupare, non sudare. Quando abbiamo un po' di spazio, ovviamente, in più, cerchiamo di scoprire i gusti musicali degli artisti. Allora, cosa succede? Succede che tu, per esempio, diciamo ipoteticamente, te ne vai in un'isola deserta senza Giovanna. Sì. Senza Giovanna, vero? Sì. Senza Giovanna. Senza Giovanna. Che musica ti porti? Cioè, che dischi, che CD, che... Quanti ne posso dire? Facciamo 3 o 5? Facciamo 3, dai. 3. Facciamo 5. Possiamo fare anche 5, dai, stavolta. Allora 5. A testa, a tuo piacimento. Allora, in un'isola deserta sono quindi da solo, oh, mamma. Allora, per tirarmi su di morale, per darmi energia, Trilogy di Malmsteen. Chi è Malmsteen? Malmsteen è uno dei chitarristi progressive più importanti nella scena mondiale, quello che infatti mi ha fatto innamorare Bach e Vivaldi, che ad esempio poi lui è arrivato adesso che ha sui 50 anni anche a fare concerti con l'orchestra, ma lui è proprio metallaro duro, però quando la melodia che tira fuori determinati brani e Trilogy, io sono dolce, se sono, e non so la sua altezza, intendiamoci, però è tutto un disco, tranne qualcosa cantato, proprio tutto suonato, e lo consiglio tutto perché strumentale. Insegna tanto anche ai giovani. Ok, questo allora, come primo. Poi parlavamo prima di Keith Jarrett, i concerti, quello proprio per non troppo, però ascolta, se sono già nell'isola deserta da solo non è che sia il massimo. Poi vediamo un po', secondo me è importante, però quello non è un disco, è una collezione intera, tutto il lavoro di Vivaldi. Ah, perché Vivaldi secondo me ha dato un input armonico importante, qualcosa di straordinario. Se Mozart era rockettaro un po' dopo, Vivaldi poteva essere rockettaro un po' prima. No, sì, cosa dici? Quello che mi piace di Vivaldi, che poi ha preso anche Bach, il modo nuovo, perché proprio l'altra sera ascoltavo con Giovanna Vivaldi, cioè pensa un po' te, vivere a quell'epoca, Venezia, e sentire questa musica che prima di lui... non era plausibile, non era impensabile, questi passaggi particolari che uno se vuole fa anche sul pianoforte, queste terze, queste quinte, è lì che secondo me è stato geniale. Mm-hmm. Sì, anche se tanti dicono ma è il primo ad ascoltare in classica perché è il più semplice, però ricordiamoci anche che date era, Quindi secondo me era un precursore già della nuova musica. Tu hai parlato del progressive e Vivaldi, adesso mi viene in mente un flash musicale che ti dico cosa. Alcuni anni fa, negli anni 70, 69-70, un certo gruppo si chiama Curved Hair, gruppo inglese, ha ripreso Vivaldi in chiave prog, una cosa strepitosa col violino. Era un disco stranissimo, era un disco progressive, però Vivaldi era il pezzo più importante, l'ho fatto conoscere al di là dell'ambito. È stato successo mondiale. Con questo chitarrista qua in trilogia in Malmsteen, sentivo un disco, ma che chitarra standard, che carpeggi fa? Io ero piccolino, ancora di musica, che sapevo, però sentivo che era diversa da altri. Poi ho scoperto che lui riprendeva determinati motivi, che ad esempio un disco suo precedente addirittura ha preso l'adagio da Albinoni, però perfetto. Suonato in quella maniera eccentrica, però si sentiva proprio il virtuosismo tipo un po' alla Paganini. È lì che mi sono innamorato della classica, non che io amo il metal, però lui mi ha fatto da collante poi amare. Quindi abbiamo passato Vivaldi dopo, e poi ecco un disco che secondo me è geniale proprio perché fanno ogni canzone diversa, è A Night the Opera dei Queen. Ecco, qui abbiamo un Queen dipendente, lui al di là del vetro. Come mai hai scelto questo disco di qui e non Bohemian Rhapsody, per esempio? No, poi c'è Bohemian Rhapsody. Opera, perché anche Agostino lo può dire, quel disco lì, fanno tutti i generi. È vero, hai ragione. Senza usare strumentazione elettronica. Infatti io amo soprattutto la prima parte The Queen, perché con i rocchettari, però erano durissimi a prima parte, primo sì, due dischi, però ci sono dei brani anche in maniera ironica un po' riportati agli anni 30, sì. Che sono geniali come vengono fatti con la chitarra e col basso in maniera elettronica, ma senza usare sintetizzatore. Già, secondo parte non mi piacciono tanto perché usano troppo questo brano secondo me è fantastico. Qui è Brian May, lo considero un grande chitarrista, sì. Anche come innovativo. Io da piccolino ne ero innamorato, ma io quello che amavo in assoluto era Freddie Mercury, non si discute. Però secondo me ha avuto una grande importanza il batterista. Ah, ho capito, sì. Perché Roger Taylor, al di fuori che è un grande polistrumentista, era l'unico che riusciva a stare dietro nei vocalizzi a Mercury, quando dice Galileo, e lui... E secondo me era un gruppo, erano nati per stare tutti e quattro assieme, infatti quando poi lui ci ha lasciato. Esatto, e quindi hanno sostituito con l'ex Free, non era lo stesso insomma, praticamente come voce. Per me non li considero quella parte, e quindi per me erano loro quattro. Per me morendo lui, nel senso buono, è morta proprio quella musica. Sì, preferisco ricordarli così che ormai quelle cose cover rifatte, perché Freddy era Freddy sul palco, Paul Rogers non è Freddy Mercury. Certo. Sì, certamente. Speriamo che non mi ascolta. No. Non si sa mai. È l'ultimo album. L'ultimo album, se me lo concedete. E secondo me l'opera più bella, The Wall di Pink Floyd. Ecco, hai citato prima, t'ha preso quello. Sai che come legge fondamentale di questo gioco non si può copiare Mario, quindi devi tener conto di questo. E come mai Roger Waters in totale? Perché The Wall è stato scritto tutto e assolutamente da lui. Perché secondo me lì c'è il massimo dell'espressione musicale, dell'egocentrismo musicale, forse è anche però la cosa più bella che ancora oggi non riescono a raggiungere, perché Pink Floyd rimangono, soprattutto io più di Pink Floyd dico Roger Waters, sì, perché poi quando lui ha lasciato non era per me più la stessa cosa. È un po' il discorso diciamo con Freddie Mercury, ma la genialità di quell'uomo è che lui, io parlo proprio nel mio piccolissimo, lui mi ha insegnato di mettermi, come ho fatto io nel mio piccolissimo in Giovanna, ogni tanto di un piccolo repeat. Infatti in The Wall, da Hey You a The Wall, si risente sempre una cosa che si ripete, da collante. Sì, certo. Quindi ecco, quello che mi ha aiutato ad ascoltare tanta musica e poi nel mio piccolino di poterli mettere nel mio CD. Nel tuo CD. Mario, tocca a te. Allora... è un po' problematico comunque. Io il genere musicali che ascolto è toccato Pink Floyd, logico. Sì, chiaro. E molto Genesis. Quale di Genesis? Ricordo, però non so i titoli giusti. Comunque il numero 2 credo che era il E il second primo down, è Gen- Second Down, credo. No, no, no, Second Down è quello dal vivo. E il, numero, il disco secondo dei Genesis. Dopo il primo, l'album di copertina nera. Sì, bravo. Il primo è From Genesis to Revelation. E poi il secondo disco, Trespass dovrebbe essere stato. Sì, più Trespass, meno. Dove c'era ancora il grande chitarrista che poi se n'è andato. Che, beh, certo. Steve Hackett. Steve Hackett, sì. Esattamente. Era bravo, cosa dici? E poi, secondo c'è, c'è la possibilità di attaccarsi la spina in questa isola? questo, cioè, ci sono le batterie. Quanto durano, appunto, c'è la possibilità. Dipende. No, vabbè. Io sono molto quando mi trovo in questi posti così malsanti, esotici, mi porterei anche della musica etica, quindi. Cioè, quali musica etica? Africana, India. Quindi la world music, praticamente. World music, benissimo, ti sempre fuori Peter Gabriel, visto che l'ha inventata lui. Certo, o meglio ha inventato la collana della world music. Esatto. Genesis Mania, bello, così, bello. Però io, secondo, facciamo un discorso io e te che non ci sente nessuno, ma dando via Peter Gabriel, i Genesis sono stati più Genesis secondo te oppure no? Ma hanno tentato di però Phil Collins è bravo come batterista, la parte croccante era lui, appunto, mi sa, Il cantante non è mica, c'era diverso. Noi abbiamo intervistato anni fa Bernardo Lazzetti, che è un grande cantante, sì, italiano, che anche lui aveva quella tendenza genesiana, Bernardo Lanzetti, però la voce di Peter Gabriel era unica, era fondamentale nell'insieme della band, doveva essere così. Questo è un pezzo meraviglioso di musica folk, è un pezzo assolutamente folk suo, da Peter Gabriel. Sai che i primi quattro album sono datati Peter Gabriel 1, 2, 3, 4, certo. Esatto, bellissimo. Poi tocca ancora a te, siamo arrivati al terzo, mi pare, scegliere il terzo. Il terzo è, direi, i Queen, non si possono dimenticare. Leviamo via questo album che ha scelto Alberto, sono tanti altri. Sì, io sempre da lui, però va bene. Perché più o meno abbiamo gli stessi gusti, anche musicalmente diversi, ma altro genere, per il momento... Non ti ricordi il tuo preferito? Billy Cobham. Ah, Billy Cobham, sei un batterista. Come Billy Cobham. Come ho detto, Vivaldi, tutta la collezione, lui penso che qualsiasi disco che esista, lui è un amatore, va a cercare anche Billy nei Cobham, banchetti le cose più particolari. È un batterista che, qualcuno dice, qualche critico ha parlato, che suona la batteria in modo diverso da tutti gli altri. Sei d'accordo su questo? Al di là ci sono stati tantissimi. È una tecnica tutta sua, esattamente. Sì, sì. Riesce a scambiare dal jazz al funk al rock, qualcosina di suo, ci mette sempre dentro. Ma anche Phil Collins con il brand X aveva fatto delle cose molto interessanti. A proposito del jazz contaminato dal rock, brand X è un gruppo non da poco. Non era Abacab, fortunatamente. Sì. Abacab, come si chiama quel disco? Abacab. Sì, quel disco assolutamente inconcludente e, secondo me, di grande successo commerciale, però dal punto di vista del contenuto, non so. Sì. Non so. Basilarmente io mi ti limiti ai primi. Sono d'accordo con te, i primi di Genesis è un'altra cosa, al di là della bravura di Phil Collins, certo, come musicista, sempre con Peter Gabriel dentro. Ma con Peter Gabriel è un'altra cosa, c'è poco da fare. Noi siamo nostalgici, ma io mi fermo a The Lambs Down Broadway. Anche The Trick or Tail era bellino dopo di questo, però ragazzi, non c'era più Peter Gabriel. Certo. Secondo me il più bello è Sealing by the Pound. Ecco, qui siamo d'accordo con te. Tanto genere, bellissimo, bellissimo. Ma come parlavamo prima dei Queen, come parlavamo dei Pink Floyd, quando... la persona più importante, e poi si perdono un po', ma tutti succede. Cioè, però a proposito di Pink Floyd, e poi concludiamo perché abbiamo sforato il tempo. E parlando di Pink Floyd, spesso quando la band vengono qua, ospitiamo band, artisti, solisti, e citano tanti album, citano The Dark Side, citano The Wall, e pochissimi citano Atom Heart Mother, che secondo me è il più bel disco che hanno fatto, anche se loro l'hanno abbiurato dicendo non mi è piaciuto. Secondo te cosa dici? Due domande, una a te e una a Mario. Di Atom Heart Mother, tu ami particolarmente The Wall, ma Atom Heart Mother cosa ti dice? Non ti dice niente? La suite iniziale? Sì, ma non ti prende. Quanto io sarà stato che The Wall, fin da piccolo, guardato il film, perché poi c'è il film che certo, Alan Parker, che sì, molto bene, con Bob Geldof, che è qualcosa di eccezionale. E allora, forse è quello che io ho fatto il mio giardinetto, ho detto The Wall. E basta. È quello, perché quella secondo me ha dei momenti, dei ricami musicali da brividi. E allora, infatti, Ce l'ho in c'è diretta ancora. E tu Mario sei d'accordo con lui? Condivido al 100%. Non posso staccare. Io continuo a perorare la causa di Atom Art. No, è bellissimo come altri, anche Ecos, però mi ha proprio rapito, anche il personaggio, perché poi il film... Sì, sì. È coinvolgente. Ecco. E qualcuno ha visto il concerto che ha fatto Waters a Milano? Nessuno è andato a vederlo? Io no. No. E io... Un musicista è venuto qua, l'ha visto a Milano, quello che ha fatto recentemente, è stato basito nel senso positivo del termine, una cosa strepitosa, una cosa strepitosa, uno scenario da favola, è un impeto, una cosa mai vista, una cosa spaventosa. Sì, che poi tanti dicono, ma è un personaggio triste, ma quello che sa dare, è proprio questa sua tristezza adatta ai Pink Floyd, quella... Certo, ma dobbiamo dire una cosa, però la gente compra Pink Floyd, non si ricorda di Roger Waters, hai capito? Compra il marchio, che i dischi solisti di Roger Waters non hanno venduto come i dischi dei Pink Floyd dopo Roger Waters. Ha fatto delle cose... Sì, ha fatto cose molto interessanti. Anche Berlino. Sì, d'accordo, però la gente compra il marchio, compra Pink compra Floyd. Lui. Esatto. Compra lui perché i dischi tutti fino a The Final Cut c'era lui, c'era lui sì. Okay. Adesso però ci ascoltiamo le mani certo. Sì, stessa cosa da Roger Waters. Mi scusi maestro, cosa ci fai ascoltare? Tutta Alberto armonia. Abbiamo parlato tanto, quindi adesso è il momento della musica. Infatti, e poi scaldati, ecco, che te ne faccio fare due di seguito. Prima però ci ascoltiamo uno. Allora, secondo me, proprio ricollegandoci un po' a questo discorso, anche che secondo me hanno molto creativi, ma anche un po' queste loro sofferenze, questa loro creatività anche quasi un po' religiosa di capire. Io la sesta traccia si chiama Lettere di Teo, che è abbastanza già lettere, Teo Dio, che è la parte più intima di Giovanna, che è molto religiosa, che questa questo modo di credere nostro Signore gli ha dato la forza in molti momenti, sia positivi che negativi, di andare avanti. Poi naturalmente mi ha contagiato ancora di più. A me abbiamo avuto momenti anche brutti, però questa forza, abbiamo avuto anche dei bei miracoli, quindi era normale, era anche giusto far sentire questo brano, che nel CD con gli archi, però anche abbastanza particolare e toccante, penso alla versione a pianoforte. Thank you. non so, Maurizio, tu, ma a me fa venire voglia di scrivere qualcosa, che ne so, scrivere qualche poesia, qualcosa, una melodia del genere, ti porta a lasciarti trasportare in un altro mondo quasi. Sì, bravissimo Alberto, poi la scala e le scale finali che hai fatto, le ultime due o tre scale finali, hai dato proprio una tensione, si dipanava, finalmente eri, non dico calmo, però ti sei riposato lentamente, finalmente hai finito l'esecuzione. Sì, perché questo è proprio un inno... E la religiosità, c'è la religiosità che viene fuori. Sì, perché per me è una cosa importante, perché... essendo anche credente, a me mi aiuta tanto in tanti momenti. Anzi, anche nei momenti che sono giù riesco tante volte a suonare bene, però la questione che mi aiuta è tirare fuori quella forza di dire ok, è un brutto momento, ok, non sto bene, ok, ma c'è lui da vicino, tutte le brutte cose scompaiono, e anche se sto poco bene mi aiuta a realizzare quello che sente. Qua ho voluto mettere maggiore, minore, proprio per dare, certe volte la religione per tanti, ma perché succede questo, se lui ci vuole bene, perché è tutto un insieme, che certe volte nel dolore noi dobbiamo anche riscoprire un po' noi stessi, quindi è un po' tutte le sfaccettature, per me sono delle lettere proprio che vengono spedite, io da piccolino ripeto come sono, dico signore grazie anche se ho avuto dei momenti brutti, non è colpa tua, perché devo capire. E certe volte stando male ho capito di cambiare in meglio. So che se sembra strano, già ti danno chi non crede masochistico, come, però per me è importante, perché io nel male poi la medaglia la trovo sempre del bene. Quindi se quella era la strada, so perché lui voleva così e io lo amerò sempre. Maggiore e minore hai detto. Maggiore e minore, sì. Perché ha un significato musicalmente. Oddio mio, io che per adesso non vorrei dilungarmi. No, no, ma in modo semplice, come hai spiegato prima. Secondo me basta un accordo messo in una certa posizione, facendo una progressione o di bassi, o invece andando leggermente su, andando leggermente giù, la tastiera che si può dare forza. Ho capito. Ad esempio, non so se posso fare un esempio. Certo, vai. Fai. Posso, ad esempio, secondo me, che è stata la prima parte pensata per creazione, ho detto, questo già dà un input forte. Certo. Pur essendo minore, sembra invece quasi una cosa grandiosa, un po' alla Beethoven, eppure minore, perché danno forza i bassi. E poi questo cambio, che su questo mi vado a metterci il sol diesis, che la sua terza come è stato viale. E tenendo il pedale, questo basso accompagna questa triade maggiore. Ad esempio nel brano Lettere di Teo negli archi faccio fare questo lavoro, faccio tenere il basso con l'accordo di sol, poi faccio mettere questo do diesis sulla che lo rende languido, passo un minore che per me dà molta profondità, per poi richiudere in sol. Quindi secondo me certe volte anche determinati bassi o determinate note messe in una certa maniera per me parlano, dicono io sono qui e rappresento questo. Certo, vedi Agostino, abbiamo fatto un po' di tecnica compositiva. Ma in effetti è una cosa, è bello perché è bello, sì, certo. La gente infatti, capisce perché i pezzi vengono scritti. No, ma è importante. Ho capito poco. Infatti ci sono perché... due accordi che importante. Si ripetono. Se ad esempio le persone sono interessate ad andare su YouTube o acquistare il mio CD, ci sono sempre un po', come dicevo prima, parlavamo di Waters che mettevo ogni tanto. Io ho due accordi, diminuito e un maggiore, che metto sempre per rappresentare Giovanna, che sarebbe questo lavoro, che secondo me è molto bello. Perché qua vedo la chiusura morbida che poi si apre nel sol. E questo lo riporto in molti brani, da Incanto, passando agli altri brani del CD, perché è proprio l'etichetta. Sì, la tua etichetta. Ti rubo 40 secondi. Spot. Radio Vigiova sbarca su Blu Radio Veneto. Eccoci, Radio Vigiova prontissimi a partire per una nuova puntata. Ci Ciao. Siete? Ciao Enrico, ciao. Certo che ci siamo. Ciao siamo Miriam, qui. Ciao Don Andrea. Ciao Enrico, ciao, ciao Miriam. Ciao Don Andrea. Ciao Miriam. Ciao Enrico, ciao Don Andrea. Ciao. Bene, okay, saluti li abbiamo fatti. tre simpatici conduttori dalle frequenze di Blu Radio Veneto. Vi aspettiamo con Radio Vigiova domenica alle 23. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 22:31 in questo istante, questo è giovedì. Giovedì d'agosto, noi trasmettiamo anche ad agosto, il show must go, per citare qui, the show must go, lo spettacolo non deve mai smettere, continua sempre. Siamo stacanovisti. Noi siamo Sì, perché è bello così, suonare d'agosto una musica di questo tipo, col caldo che fuori, è caldo anche qua dentro adesso, però nonostante tutto. Non è come fuori. E non è come fuori, però è positivo e si va avanti sempre, anche fino al 23 adesso. Con la giornata al mare siamo in radio. Certo, giusto. Blu Radio Veneto con voi, amici, con la voce di Agostino Spolaura e con Maurizio Calzavara stiamo cercando di farvi conoscere una realtà genovese, un bravissimo artista, un grande amico, si chiama Alberto Lupi Musso. Quella J per cosa sta, Alberto? Allora, quella J è il mio disco, voluto dire, ma sì, vi do un tocco di importanza, perché io faccio Giovanni di secondo nome con mio papà e poi faccio Riccardo, però la J è Johan. Perché quello che dicevo prima, questo chitarrista che da piccolino, ma penso che a 15 anni sia il poster di questi rocchettare, no? Ingui J. Malmsteen, quella G. Johan, però lui non si chiamava, lui l'ha rubata, invece mi chiamo proprio Giovanni, ho detto lo metto in latino, Johan lo faccio. Esatto. Quindi ho detto un tocco di, e poi, no, un po' di vanità, ma sì, un pochino, sai, no. 88 700 94 600 sono le nostre frequenze in modulazione di frequenza. Vi ricordo il nostro numero di telefono di studio, è lo 049 875 6423. Le nostre dirette streaming audio e video, basta collegarsi semplicemente nel sito della radio, sotto la scritta streaming c'è la freccia ormai famosissima, la conoscono tutto il mondo, cliccando lì si sente la radio in diretta 24 ore su 24. E poi abbiamo anche la diretta video, ti stanno vedendo in tutto il mondo semplicemente digitando diretta rockwave.tk, oppure andando nella recensione di Maurizio della nostra emittente, cliccando su diretta video potete vedere Alberto Musso suonare. Posso dire Agostino, per dovere di cronaca, la recensione della redazione, quindi scusa per dovere di cronaca no, lo facciamo suonare, poi glielo chiedo. Facciamo suonare, poi glielo chiedo. Okay, cosa ci sono? Allora, ricollegandoci al discorso dei due accordini, sì. Adesso faccio il brano che un pochettino rappresenta il suo viaggio. Prima abbiamo visto la questione Genova di Cime, adesso c'è Giovanna e Anna, il suo saluto alla sorella per dire vado. Sì, parto praticamente. Quindi struggente, ma c'è tant'è poi nell'inciso del brano, per rendere anche più semplice il discorso, il ritornello alle persone, dove sentiremo questo doppio accordo che accompagna, come dire, ok, una cosa triste, ok, provo a vedere una nuova vita, però c'è la questione che c'è sempre la romanticità che l'accompagna, perché lei lo è sempre stata e lo sarà, ecco. Ecco perché metto sempre questi due accordi che si sentiranno benissimo. Certo. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Blu Radio. A me piace molto quando chiudono, gli dà l'ultimo tocchettino con la mano, dolcezza, vero Alberto? Sì, dopo tanto, dopo tanto. Penso sì, con grande vigore, con grande pathos, sei allora, proprio... L'ultimo, la mattina sì, più leggera. Sì, esattamente. Dire, state tranquilli. Sì, perché nel pezzo, nell'ambito del pezzo, nella parte centrale, hai martoriato il tuo piano nel senso positivo del termine. Comunque, è come quando uno mette le mani nel dasso o nella creta, no? Sì. Perché quello è anche un bellissimo gesto, creare. Certo. Io cerco di creare così. Un poverino con Samuel, che poverino è distrutto. No, è tuo, come si chiama? Tuo? Samuel. Ah, adesso Samuel. Samuel. No, Samuel è il suo nome. No, lui si chiama Samuel, tuo nome e cognome. Allora poverino ogni tanto mi dice, ma come fai da guardare? Però perché... mi devo sentire parte di lui. Sono io che mi devo sentire parte sua, è quello che mi piace. Bello, è una cosa molto positiva questa di sentire parte dello strumento, ma sì. Tutti i musicisti secondo me hanno questa caratteristica di sentirsi parte dello strumento, uno che ama lo strumento e sì. Deve essere così, ma io infatti ci parlo, io me lo pulisco tutti i giorni, sto più attento a lui che fra un po' a me perché ci tengo, so che anche per dire vediamo la questione economica, anche sì. Qualsiasi strumento ha un costo, certo, allora vero. Giustamente devo tenere bene, cavolo, dubbiamente. E poi dopo mi affeziono che non riesco, io avrò 3000 tastiere però non le do mai via, nel senso qualcuno è impestato a qualche allievo, può essere, però poi tornare alla base. Poi tu una cosa, citiamo una cosa molto bella che tu fai, insegnante, cioè insegni ai ragazzi praticamente. Sì, ho la fortuna di avere, che li saluto tutti quanti, dal più grande al più piccolo, parecchi ragazzi, anche signori, e la cosa sono loro che insegnano a me, nel senso che loro mi danno delle motivazioni e delle energie che mi trasmettono, che poi io trasmetto in musica, perché certe volte solo, ad esempio, metti così la mano, metti così, anche se sbagliano, però trovano una soluzione armonica di colore, che cavolo però, devo usarlo io, e poi mi danno tanto a livello umano. Io infatti la cosa che vorrei fare, proprio il mio sogno nel cassetto, è quello di fare tante serate live a contatto, come stiamo facendo col pubblico, perché come mi state facendo voi fare adesso, perché mi date anche tanto voi, quindi io poi l'esprimo a seconda di come vi vedo, perché vedo come due note musicali, come tanto mi danno i miei allievi che sono là. Infatti io vivo d'arte, ma una cosa meravigliosa. Sarebbe un'idea che ci facesse una canzone intitolata Agostino Maurizio, eh? Un do diesis, un re bemolle. Ecco, benissimo. Ascolta Alberto, non abbiamo ancora parlato dei dati cosiddetti tra virgolette tecnici tuoi, sì. Cioè il tuo sito, Facebook, sì. Dove si può acquistare il disco. Allora, eccetera, posso eccetera. Fare un po' di pubblicità? Certo. Allora, come no? Allora, vabbè, chi mi vuol contattare mi può contattare tramite Facebook, Alberto Luppi Musso, anche su MySpace, con l'inizio di MySpace, però questa volta Alberto J. Luppi Musso, però sono la stessa identica persona. Poi chi vuol vedere i miei video può interessarsi sul mio lavoro, può andare su YouTube, che ci sono parecchi, anche fatti da parecchie persone. E per quanto riguarda Giovanna, ci tengo a precisare che un solo negozio in Italia lo ha questo CD, in quanto l'ha voluto proprio un'esclusiva, e questo mi fa piacere, perché poi il negozio più importante che abbiamo a Genova, proprio un negozio cult per classiche jazz, quindi io ne vado fiero per essere vicino alla vetrina, tipo con Kay Jarrett, esatto, quindi preferisco un certo negozio così, detto che uno va, che ha la confidenza, quindi dico a tutti che chi vuole acquistare può contattare, che ho messo anche qualche link su Facebook, Orlandini Dischi, perché sono quelli che hanno creduto in questo progetto e sta andando bene, e chi lo vuole anche all'estero basta contattarli telefonicamente, loro in Italia, all'estero lo mandano. Chi abita beh, a Genova, certo. Anche nelle regioni vicine, ecco la cosa bella di questo, di avere il contatto, sì, ce l'ho anche su iTunes, Amazon, però avere il contatto col negoziante, la cosa di dire hai fatto il prodotto, vediamo se te lo vendo, e per fortuna va bene, non avendo chissà che pubblicità, anzi dicendo guarda che hai venduto più di quello. Ed è una cosa positiva. Sei anche in digitale, sei? Cioè su iTunes, quella cosa lì o no? Sì, ci sono, però poi ho preferito proprio dare l'esclusiva, come si poteva fare una volta. Che una volta mi ricordavo quando non c'era internet, che io tramite vari negozi chiamavo loro, ah, guarda questo disco speciale ti faccio vedere da Amsterdam, quelle cose belle, e loro hanno anche venduto fuori Italia il mio CD, perché prendono i loro contatti e fanno, secondo me è un po' come quando una volta si andava dal panettiere, non più nel centro commerciale, ma quando mi dà una di focaccia, mi dà due non che uno va lì col sacchetto dei penne deve fare certo. Veloce. E tu hai detto una cosa giusta, purtroppo questi negozi stanno scomparendo. Ne sa qualcosa Mille Records di Roma, Nannucci è stato ridotto a Bologna, eccetera. È una cosa molto negativa, perché la gente ha bisogno di un parere quando va dentro a comprare un disco. Ecco. Che la gente che vende non è solamente un negoziante, è anche un esperto, un amico. Infatti quello che volevo dire è che i fratelli Orlandini sono due esperti. Devo dire che quando vado lì, che per me è la mia droga, comprare i CD, perché io li compro, questo ci tengo, perché... È importante che se un artista vuole andare avanti, sì, ok, si può scaricare qualcosa, va bene, però aiutarsi anche a vicenda. Certo. E dico, Pietro, mi scusi, cosa mi consiglia? Oscar Peterson questo mese, ok, e poi di classica quello, e poi sentito l'ultimo, ecco, proprio persone esperte, e poi qualsiasi cosa che prendo con loro marco si può dire, che dico, guarda questo qua è buono. Cioè, infatti Oscar Peterson, tanto lo... devo ringraziare loro perché me l'hanno fatto scoprire. Guarda che è un po' simile a te, dammi retta, ascoltatelo, che poi con Brown al contrabbasso impari, dammi retta. Lo conosco anch'io comunque, ho scattito. Sì, piace molto anche a me. Dice che assomiglia un pochettino, infatti grazie ai fratelli Orlandini perché... Questo è giusto, è una cosa fondamentale, perché purtroppo, come abbiamo detto prima, stanno scomparendo, c'è l'idea, ci sono i centri commerciali, ma i centri commerciali sono tante cose, ma non ci sono le cose specifiche. Una volta ho chiesto un consiglio, un centro commerciale, mi ha detto, vada là al muro che ci sono gli apparecchi con le cuffie, ho capito? Sì, ma non... una volta sono andato a un negozio, di queste... c'è stato Basson, che io sapevo che fa gotto, questo mi metto, vale dire Bassone, quindi... Lo so, purtroppo capita questo. Stanno chiudendo tutte le catene di negozi di questo tipo. Bisogna difenderli. C'era io cito il Mucchio Selvaggio, che è un giornale musicale che tutti conoscono. Sì. Ha fatto proprio un articolo tempo fa parlando di questa difficoltà di trovare un posto. Non è un posto, è un modo come un altro di imparare cose nuove da uno che sa. Che ti dà un consiglio musicalmente. Ma infatti io ne parlando. Vado fiero di avere un negozio che è importante, perché certo. È uno dei più importanti di Genova. In Genova, poi proprio anche come cultura, come tutto e come anche data. E poi posso consigliare di venirmi a sentire dal vivo, che ecco, forse è la cosa... citiamo le date, ecco, dai. Sì. Per tutto, allora, le date che ho dopo questa bellissima esperienza di stasera... che suonerò il 19 agosto, come parlavamo prima con Claudia, questo bellissimo festival in due serate, non solo il 19 ma anche ad ascoltare il 26, dove mi esibirò con Marco Cravero, grande turnista che abbiamo già citato prima. Sempre con Marco Cravero aprirò la stagione jazz e blues allo Style Down EU, proprio detto in genovese, che è un locale che sta prendendo alla grande. Saluto anche Fabio, che è il direttore anche artistico, è il proprietario, dove proprio si apre la stagione blues e jazz, il bello proprio una classica osteria dove, dove si beve dell'ottimo vino e ma si sente. Ascolta della bella, nel senso che si cerca di dare un po' un locale che potrebbe essere tipo a New Orleans. Sì. Infatti ho la fortuna, per me è un onore che Fabio mi ha dato, di aprire con Marco Cravero tra jazz e blues. E poi anche ringrazio tanto, che poi farò più avanti, anche il Berio Caffè, che poi si riprende dal signor Paolo Vanni, perché lui mi ha dato tanto. Io devo dire, è stato la prima persona che ha creduto in te, ha creduto, ha fatto fare parecchio, poi toscanaccio, quindi cioè, ogni tanto succede anche dei litigi nel senso buono, però mi ha fatto crescere tanto anche artisticamente, Fabio Richebono invece dello Style, quindi sono due personaggi che a Genova mi stanno coccolando, mi fanno conoscere, quindi chi vuole anche da fuori venite a fare un salto, tanto Genova è bella. E sentite un concerto mio dal vivo, che forse ancora meglio. Certo, sì. Adesso però ci ascoltiamo qualcosa da studio. Ok. Anche per farti riposare un pochino e anche per far conoscere il tuo disco. Cosa ci hai scelto adesso? Adesso ho scelto Creazione, che avevamo già sentito prima, però questa volta version, come si faceva una volta, finale, la reprise, chitarra e archi. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Lo so, ho visto l'ora. È bellissima che questa stavo dicendo. Parlassi dell'ora. No, non abbiamo problemi. No, problemi no, assolutamente. Se loro non li hanno, non abbiamo neanche noi. Esattamente. Allora, vai. Alberto, sì. Io volevo fare una cosa così, strapparti un regalo per Blu Radio Veneto, per i tuoi fans, per i nostri ascoltatori. Io so che stai facendo qualcosa di nuovo. Sì. Stai preparando il disco nuovo. Sì. Ci regali qualche anteprima? Hai voglia? Sì, allora, come ho detto prima, il disco nuovo sarà completamente dedicato alla gioia di vivere. E quindi ho due bambini che io ci tengo in particolar modo, perché uno è Eric e l'altro è Sabrina. E proprio partirà l'album con Eric e finirà con Sabrina, perché Eric è più grande, per modo di dire, e Sabrina è proprio l'ultima nata. Però tutte e due, anche qua, ho tenuto come un po' nel disco Giovanna, gli unici due brani che si assomiglieranno parecchio, in quanto hanno una gioia di vivere, una simpatia, un modo di fare, che quando io sono un po' triste vedo le foto, o sto con Eric, o vedo le foto di Sabrina, o sto con Sabrina, mi passa tutto. Quindi certo, partirei con Eric. Ok. Allora, diciamo subito che è un regalo che hai già fatto ascoltare queste canzoni, non credo, vero? Soltanto dal vivo, la prima trasmissione in maniera ufficiale, che faccio sentire la mia nuova produzione, che sarà quello del prossimo disco. Bene. E quindi scusa per voi. E il regalo per... Un regalo per voi e per tutti i vostri radioascoltatori. E per i tuoi fans. Grazie. Blu Radio Veneto. Thank you. Wow. Questa è Eric. Questa è difficilissima, secondo me, molto difficile. Non so se sei d'accordo. Un po' tipo la Keith Jarrett. Sì, molto la Keith Jarrett. Effettivamente è molto difficile, secondo me, come esecuzione. Sei stato bravissimo perché hai danzato. Proprio hai danzato nel vero e proprio senso del termine. Secondo me, non so cosa dice questo. Sono perfettamente, pienamente d'accordo con te. Infatti, questa presenta, che poi Giovanna e Mario sanno. Proprio il temperamento di Eric, che è proprio un trottolino, poi dove non si ferma mai. Allora, giusto, come la interpreta, si sente proprio lei. Proprio così, bene, bene. Ecco, cerco proprio di dare, come se fosse qua, lui correrebbe avanti e indietro, urlerebbe dalla felicità. Quindi invece Sabrina, essendo piccina, essendo appena nata, avendo pochi mesi, è più una cosa dolce, quindi l'ho portata più alla ninna nanna. Quindi lui apre le danze, Sabrina le chiude in maniera dolce. E sentiamo come le chiude. Subito. Vai, vai, ti lascio, vai pure. Vado. Thank you. Bellissima, questa è stata veramente molto molto bella. Sì, un dolce ma un po' un contrastato in alcuni momenti. Sì, perché allora io ho voluto dare la dolcezza della Nina Nanna, però anche lei si muove, piangere, sì, sì. Si muove, la certo. Vita. Il collegamento tra Eric e Sabrina, proprio la gioia di vivere. Che tante volte noi un po' ce lo dimentichiamo, certe volte no? Sì. Pensiamo sempre ai nostri problemi, ma guardiamo un po' anche intorno. Ce ne sono tante, sì, tante certo. Persone che... Tante volte noi stanno peggio di noi, come no? Anche per la strada, mi puoi dare una mano qua? Intanto, c'è i miei problemi. Cosa... questo che sbagliamo. Allora spero io per prima di riflettere con queste musiche per dire: eh no, ci sono anche gli altri, non ci siamo solo noi al mondo. Certe volte siamo un po' troppo, pensiamo solo a noi stessi. Questo è vero. E non so se i nostri ascoltatori avranno visto con le telecamere, perché Alberto cantava il pezzo, se lo cantava veramente nell'ambito dell'esecuzione, perché gli dava forza, secondo me, non è così? Sì, sì, perché poi cantando la melodia in maniera principale, poi mi vengono in mente altre cose da fare. Secondo me è molto importante, proprio come vi ho detto sin dall'inizio di questa serata, vivere un brano. E io quando me li canticchio, quando faccio anche un qualsiasi accordo, è importante, secondo me, mi dà forza, perché quello che sto facendo mi piace, cerco di coinvolgere anche gli altri. Ma questo ti succede guardando un soggetto? Va bene, a parte il caso di Giovanna, ovviamente, che avevi lo specchio lì davanti, la tua musa ispiratrice. Però se scrivi altre canzoni che non hanno niente a che vedere con una persona, cioè ti immagini qualcosa, è un evento, un qualcosa di tuo, intimo, sì, personale? Mi immagino, ad esempio, per quanto riguarda Eric, Sabrina o altri brani, proprio cerco di dire in musica quello che penso di loro con le parole. Sempre comunque persone, comunque. Sì, no, beh, persone o anche ci sono, poi ci saranno dei brani anche che riprendono un po' il discorso del CD di Giovanna, anche qualcosa più di etnico, qualcosa di acustico, sempre questo gioco contrabbasso pianoforte. Anche altri argomenti, forse potrebbe essere toccato qualche anche argomento sociale, ma non troppo, perché poi di solito tutti vanno... Però una puntatina, come potrebbe essere stato Lettere di Teo, Giovanna, che ci stava bene nell'ambito della vita di una persona, sì, ma non a mettersi lì a fare... sì, così parlo. Anche nel disco della gioia della vita, senz'altro qualcosina sulla vita, qualcosa anche di coloro che hanno lasciato, ci hanno lasciato, ma hanno lasciato una traccia importante, forse qualcosina sicuramente toccante e particolare. Sì. È già il titolo del disco oppure no? No, allora, lo lasciamo perdere. No. Non lo diciamo se non vuoi dirlo, assolutamente. No, ma penso che il 99% ho due titoli. Uno potrebbe essere La mia vita, ma ultimamente sono andato con Vola in me, che è l'unico brano dedicato al nuovo CD a Giovanna, perché poi Vola in me vola tutte quelle emozioni che mi danno Giovanna, i bambini e così via. Forse Vola in me è quello che mi deve spiccare il volo verso nuove emozioni. Esiste un'etichetta vera e propria o un'autoproduzione? Produzione. Un'autoproduzione, assolutamente. Sì, perché mi piace dire voglio fare quello e non voglio essere... legato a qualcosa. Assolutamente. Anche una piccola cosa, per dire anche è stato velocemente, è stato spendere chissà che cosa, ma quello deve essere, perché quello che voglio portare, in quello mi impunto, toro ariete sono, quindi... testacci da c'è. Okay, ho capito. Una semplice curiosità mia, sì, personale, sì. Alberto, quando sei tu ed Alberto... fai sì. mai qualche pezzo di altri artisti? O fai sì. solamente no, cose no, tue? No. Che esempio... ne so, per esempio, mi viene in mente Keith Emerson. Lo fai qualcosa? No, io amo particolarmente Chet Baker. Certe volte succede che sono talmente intimo con me che Giovanna arriva da lavorare, apre la porta. È da mezz'ora che in casa io manco me ne accorgo, perché sono lì nelle mie evoluzioni musicali, evoluzioni anche di maniche. Ah, ma amore, sei arrivata quando? C'è mezz'ora fa. E mi sono accorto. E fai comunque qualche cover. Sì, sì, sì. Cos'è che ti piace fare? Io amo My Funny Valentine. E falla, ce la fai, sì. Però tutta la mia interpretazione. Tu fai quello che vuoi. Thank you. Sì, Lady and Gentlemen, Alberto Lupi Musso. si può dire così, anche sì, certo. No. Mi viene voglia di farti una richiesta, me la fai, posso fare. Qualche secondo di notturno di Chopin, ce l'hai? Ce l'hai nelle corde, nella mente? Me la voglio sentire. Va bene anche il Chiar di Luna. Va bene il Chiar di Luna. Benissimo. Va bene il Chiar di Luna. Grazie, gentilissimo, gentilissimo. Senti, io direi di fare una cosa del genere, siccome siamo quasi in chiusura. Sì, esattamente. Lo facciamo riposare, sì. 3 minuti e 35 facciamo secondi, qualcosa. Facciamo ascoltare l'ultimo pezzo da disco che aveva scelto e poi ci fai un gran finale a tua scelta, insomma, quello che vuoi tu. Cosa hai scelto però? Notte d'agosto. Siamo in agosto. Va benissimo, benissimo. La notte di San Lorenzo, dove tutti i desideri ti guardano al cielo. Che quindi a tutti i radioascoltatori, telespettatori webcam, certo. Si possa realizzare. Come tante volte chiudo piano a dire buonanotte amici su Facebook, che ognuno possa realizzare i propri sogni, che ne abbiamo bisogno per tornare bambini. Grazie. Notti d'agosto. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Degna chiusura con Notte d'Agosto. Posso dire una cosa, Alberto, sì, in questo momento? Questo è il pezzo, il brano, secondo me, più sperimentale nel senso positivo, più al di fuori del trend che tu hai usato. Non so se sei d'accordo. Sì, perché è stato come volevo come intendo io quando suono dal vivo, dare la gioia di divertirsi. Ecco, perché sì, poi sono, se posso... Sì, vai, vai, vai. Sono quattro accordi tenuti dal basso di do, però... Una semplice alchimia che però con gli strumenti, certo, ci divertiamo da un tono, anche tanto. Da un tono. Basta un basso continuo che... Si sono divertiti a suonare, sì, sicuramente, sì, in questo pezzo, sì, anche in tutti gli altri, ma in questo particolarmente. Sì, beh, un po' un ringraziamento per quello che hanno fatto, insomma. Certamente. Vogliamo riepilogare i musicisti che ci sono stati sul allora, disco. Allora, nel CD hanno partecipato Stefano Bagnoli alla batteria, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e basso elettrico, alle chitarre nostra Alessio Menconi. Dal vivo ci tengo a sostenere di fuori assieme al mio Mario, amico Mario Vasa, ma lui c'è un'amicizia di fuori anche dalla musica. Ho avuto il piacere di suonare con tanti bravi jazzisti, divido il live tante volte con Manuele Deschaux, che è veramente un talento eccezionale, e poi adesso avrò la fortuna di suonare con Marco Cravero, quindi che è un bluesman non da poco, è un bluesman, esattamente, ok. Allora, ricordiamo anche come dire i vari poi dati tecnici, cioè quindi i prossimi concerti, dove allora, si compra il disco. Allora, in maniera molto sintetizzata, non come la mia musica che la allungo. Allora, il 19 agosto mi potete sentire al Festival di Varigotti con altri bravissimi artisti. Mi ricordo anche con piacere che c'è anche la data successiva, anche per altri artisti che sono tutti bravi. Poi il 17 settembre apro e sono con Marco Cravero, sempre con Marco Cravero, il 17 settembre apro la stagione jazz and blues dello Stradale Neo a Genova, e poi il CD lo potete trovare in esclusiva da Dischi Orlandini Genova, ma che copre, ripeto, l'Italia e l'Europa. Basta, poi metterò parecchi link su Facebook e messo su Facebook come persona che vuole prendere contatti anche come insegnante, e su MySpace e su YouTube ci sono vari video. Perfetto. Abbiamo passato una serata in dolcezza, Alberto, ci hai regalato delle emozioni. Permettimi di rubarti qualche secondo per salutare una persona che a me sta diventando veramente molto molto cara. È una splendida collega di un'altra emittente siciliana che è collegata in questo momento, la radio si chiama Radio Alcamo Centrale. Lei ha una voce splendida, ti dicevo, una ragazza bravissima, si chiama Valentina Renda, ci sta ascoltando perché mi ha appena scritto, sta ascoltando te e le tue melodie. Purtroppo è arrivata nella parte finale della trasmissione, ma gli do appuntamento magari alle prossime volte. Gli mando un grande bacione, sono fiero, veramente orgoglioso, onorato di averla conosciuta. Magari, chissà, se verrà a Padova a trovarmi, magari faremo anche qualcosa insieme. È una veramente una bravissima collega di Radio Alcamo Centrale. Ciao Valentina, un bacione grande grande a te e a tutta la radio, e grazie di quello che mi avete regalato domenica scorsa, insomma. Sì, prima di concludere sottolineiamo una cosa, a microfono spento parlavamo con la Giovanna e anche con Mario, mi hanno detto: ma perché non hai citato la critica così positiva di un critico di un giornale genovese? Io ho detto: non serve, la musica che mi ha dato Alberto parla da sola, la critica era positiva però l'ho messa là, e quindi questo è tutto, secondo me è la cosa più importante della trasmissione. Ecco, questo input, volevo dire una piccola cosa se mi era concessa, che in maniera senza far nome tutto saluto caramente tutti quelli che mi seguono su Facebook anche giornalmente, che mi danno il rapporto, che anche quando sono stanco dico, dopo 8 ore pianoforte sono stanco, dico no dai continua fai, e quindi li saluto caramente tutti gli amici che ho, che spero poi anche in futuro di nuovo i vostri radio spettatori, e certo, grazie certo. Di tutto veramente, certamente. Allora, la trasmissione è finita, sono le 23.21 e Agostino Spolore vi dà l'appuntamento non tanto a giovedì ma prima, lunedì. Sì, lunedì avremo una jam session musicale. Abbiamo un periodo questo estivo. Una jam session musicale con un amico DJ di Verona, Gianluca, e un giornalista del Mucchio Selvaggio. Alberto, parleremo della musica a 360 gradi, parleremo del beat inglese, quindi gli Small Faces e anche degli anni 80, degli anni 90, e faremo un piccolo omaggio a un grande vecchio per modo di dire, si chiama Mr. Bob Dylan, ha compiuto 70 anni, farò un piccolo omaggio, una mezz'oretta, parlando dei suoi, ci sono tantissimi pezzi di Dylan, però quelli più significativi è difficile, però qualcosina parleremo anche di lui. Ecco, lunedì ore 8, ore 21. 21, ore 21, avremo anche un giornalista del Mucchio Selvaggio. Del Mucchio Selvaggio. Poi avremo mercoledì e ancora... Non si sa, mercoledì avremo i Soluzione, un gruppo di Roma. Ecco, martedì salto, me lo concedi. Martedì è il tuo compleanno, esattamente. Ecco, grazie. E poi giovedì invece ci sarà una serata speciale con un chitarrista ed una voce femminile che ci presenteranno il blues da Milano, verranno qui a trovarci, faremo una serata anche quella all'insegna delle cover del blues. E poi andremo alla settimana successiva, sì. Ma poi ne parleremo. Ci sarò sempre io, sì. Ma dai. non si sa mai. Ci sarò sempre io, purtroppo c'è poco di fa. Allora, io ringrazio Alberto. Fate coppia fissa, no? Sì. Beh, lui è un mostro sacro delle conoscenze, anche perché sinceramente quello che sa lui io veramente non ci arriverei mai a sapere. Ma Gianluca mi supera, lunedì, sì. Cari ascoltatori, lunedì state attenti alle 21 con Gianluca, ci porterà nel mondo del rock, e non solo del rock, del blues, del funky, della musica hard metal, di tutto, è un mostro, assolutamente un mostro. Io ne approfitto anche così mi allargo un po' per chi mi sta ascoltando, un po' di pavoneggiamento. Credo che prossimamente, quindi penso, quando è che me l'hai concesso? Te l'ho concesso mercoledì 17 agosto. Allora, finalmente sarò solo, non avrò Maurizio. Vi regalerò due ore, penso, più o meno. Insomma, sì, dalle 20. Dalle 24 o dalle 21 alle 23? Solo io? Sì, solo te. Io dalle 22 alle 24, sì, perché prima c'è Roberto, quindi dalle 22 alle 24. Ecco, quindi penso, solo io con la mia voce ovviamente, ma soprattutto con la mia cosiddetta musica, che a Maurizio tanto non piace, ma a me invece fa impazzire, quindi ascolteremo le voci mondiali, tra cui Celine Dion, che io invidio tanto la mia collega Valentina, perché lei ha avuto la possibilità di conoscerla, quindi è stato emozionante, mi ha raccontato tutto per filo e per segno questo incontro con questo big, questa voce femminile mondiale. Va bene, quindi all'appuntamento quindi questo agosto non vi lasceremo soli, saremo qui sempre in diretta, sempre qui a Blu Radio Veneto, con Agostino, con Maurizio e con gli artisti che si succederanno qui di volta in volta. Intanto, Alberto, di nuovo grazie di aver accettato l'invito, di aver partecipato, grazie di averci suonato la tua musica, le tue melodie, le tue mani sono fantastiche, veramente eccezionali. Ci saluti con che canzone? Con il brano rappresentativo assieme a Giovanna, nel CD Giovanna, Che Incanto. Benissimo, grazie Alberto. Grazie a Giovanna, con gli mando un bacione anche a te Giovanna. Grazie a Mario anche. Ciao, grazie a tutti. Ciao Mario. Grazie ciao a te Agostino. Grazie e buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto, che ovviamente non vi abbandona mai. Ciao Alberto. Ciao, grazie. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.